Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Jursenar. In questo frattempo morì Licinio Sura. Tra i consiglieri privati dell'imperatore era il più moderato. La sua morte fu per noi una battaglia perduta. Per me, Sura aveva mostrato sempre una sollecitudine paterna. Da qualche anno ormai le deboli forze che gli lasciava il male non gli consentivano più la diuturna fatica dell'ambizione personale, ma gli furono sempre sufficienti a servire un uomo di cui condivideva le opinioni. La conquista dell'Arabia era stata intrapresa contro i suoi consigli. Lui solo, se avesse vissuto, avrebbe potuto evitare allo Stato le tribolazioni, gli sperperi immani della campagna contro i parti. Divorato già dalla febbre, dedicava le sue ore insonni a discutere con me progetti che lo sfibravano, ma il cui esito gli stava a cuore più che qualche briciola ancora di vita. Al suo capezzale ho vissuto in anticipo, sino al più minuto particolare amministrativo, alcune delle fasi future del mio regno. Le critiche di quell'agonizzante risparmiavano l'imperatore, ma egli sentiva che quel po' di saggezza che restava al regime moriva con lui. Se avesse vissuto 2 o 3 anni di più, forse mi sarebbero state evitate certe vie traverse di cui fu improntata la mia scalata al potere. Sarebbe riuscito a persuadere l'imperatore a compiere l'adozione più presto, allo scoperto. Ma le parole estreme di quell'uomo di Stato, che mi lasciava in eredità il suo compito arduo, sono state per me un'investitura imperiale. Se aumentava il gruppo dei miei sostenitori, altrettanto accadeva a quello dei miei nemici. Il più pericoloso dei miei avversari era Lucio Quieto, nelle cui vene scorreva sangue romano e arabo. I suoi squadroni numidi avevano avuto una parte considerevole nella seconda campagna dacica. Era un fautore esagitato della guerra in Asia. Tutto mi era detestabile in quell'individuo: il lusso esotico, gli svolazzi pretenziosi dei suoi veli bianchi orlati d'un cordone d'oro, quei suoi occhi sfuggenti e insieme arroganti, la sua crudeltà indicibile verso i popoli vinti e assoggettati. Quei capi del partito militare si decimavano tra loro nelle lotte intestine, ma coloro che restavano non facevano che cementare sempre più il loro potere, e io ero esposto sempre più alla diffidenza di Palma e all'odio di Celso. La mia posizione personale, per fortuna, era quasi inespugnabile. L'amministrazione civile era sempre più nelle mie mani, da quando l'imperatore attendeva esclusivamente ai suoi progetti di guerra. I miei amici, i quali soltanto avrebbero potuto soppiantarmi per la loro capacità e la conoscenza degli affari, dimostravano una modestia nobilissima, preferendomi a se stessi. Nerazio Prisco, nel quale l'imperatore riponeva una grande fiducia, si limitava ogni giorno di più deliberatamente alla sua attività legale. Attiano organizzava la sua esistenza nella finalità di servirmi. Avevo la cauta approvazione di Plotina. Un anno prima della guerra fui promosso alla carica di governatore della Siria, alla quale in seguito si aggiunse quella di legato presso l'esercito. Incaricato di controllare e di organizzare le nostre basi, divenni così una delle leve di comando di un'impresa che giudicavo insensata. Esitai qualche tempo, poi accettai. Rifiutare significava precludersi la strada maestra per il potere proprio in un momento in cui il potere mi stava a cuore più che mai. E significava altresì privarsi dell'unica possibilità di rappresentare la mia parte di moderatore. Durante quei pochi anni che precedettero la grande crisi, avevo preso una decisione che mi fece giudicare definitivamente frivolo dai miei nemici e che in parte aveva proprio lo scopo di suscitare tale giudizio e parare così ogni attacco. Ero andato a passare qualche mese in Grecia. La politica, almeno in apparenza, non entrava per nulla in questo viaggio. Fu un'escursione di piacere e di studi. Ne riportai qualche coppa incisa e alcuni libri che divisi con Plotina. Laggiù ricevetti tra tutti i miei onori ufficiali quello che accettai con gioia più viva. Fui nominato arconte di Atene. Mi concessi qualche mese di operosità e di svaghi facili, di passeggiate in primavera sulle colline disseminate di anemoni, di contatti amichevoli col marmo nudo. Occupavo da un anno la carica di governatore in Siria, quando Traiano mi raggiunse ad Antiochia. Veniva a ispezionare gli ultimi preparativi della spedizione d'Armenia, che, nei suoi disegni, preludeva all'attacco contro i Parti. L'accompagnavano come sempre Plotina e la nipote Matidia, la mia indulgente suocera, che da anni lo seguiva al campo in qualità di intendente. Celso, Palma, Nigrino, i miei vecchi nemici, sedevano ancora nel consiglio e dominavano lo stato maggiore. Tutti costoro si accomodarono alla meglio nel palazzo in attesa che la campagna avesse inizio e ripresero con rinnovato vigore gli intrighi di corte. Ciascuno faceva il suo gioco in attesa che la guerra gettasse i suoi dadi. L'esercito mosse quasi subito verso il nord. E io vidi allontanarsi con esso la fitta calca di alti funzionari, di ambiziosi e di inutili. L'imperatore e il suo seguito fecero a Commagena una sosta di pochi giorni, in occasione di feste già trionfali. I piccoli re d'Oriente, riuniti a Satala, fecero a gara per protestargli una lealtà sulla quale, al posto di Traiano, non avrei fatto troppo affidamento per l'avvenire. Lucio Quieto, il mio rivale più pericoloso alla testa degli avamposti, nel corso di una vasta incursione militare occupò le sponde del lago di Van. La parte settentrionale della Mesopotamia, evacuata dai parti, fu annessa senza difficoltà. Abgar, il re d'Osroene, fece atto di sottomissione a Edessa. L'imperatore tornò ad Antiochia a occupare i suoi quartieri d'inverno, rinviando a primavera l'invasione vera e propria dell'impero partico, ma già deciso a non accettare alcuna proposta di pace. Tutto si era svolto secondo i suoi piani. La gioia di tuffarsi finalmente in quell'avventura differita per tanto tempo restituiva quasi una nuova giovinezza a quell'uomo di 64 anni. Le mie previsioni però restavano cupe. L'elemento ebreo e quello arabo erano sempre più ostili alla guerra. I grandi proprietari delle province si irritavano di dover indennizzare le spese provocate dal passaggio delle truppe. Le città mal tolleravano l'imposizione di nuovi tributi. Sin dal ritorno dell'imperatore si verificò una prima sciagura, preludio di tutte le altre. Un terremoto, nel cuore di una notte di dicembre, distrusse in pochi istanti quasi una metà di Antiochia. Traiano, contuso per la caduta d'un trave, continuò eroicamente a occuparsi dei feriti e, tra le persone più intime attorno a lui, vi furono dei morti. La plebaglia siriana subito andò a caccia dei responsabili del sinistro. L'imperatore, derogando per una volta dai suoi principi di tolleranza, commise l'errore di lasciar massacrare un gruppo di cristiani. Personalmente ho pochissima simpatia verso quella setta, ma lo spettacolo di quei vecchi frustati con le verghe e dei bambini torturati contribuì all'inasprimento degli spiriti e rese ancor più tetro quel sinistro inverno. Mancava il denaro per sanare immediatamente gli effetti della sciagura. La notte s'accampavano sulle piazze migliaia di persone senza tetto. I miei giri di ispezione mi rivelavano l'esistenza d'un sordo malcontento, d'un odio segreto e insospettato dagli alti dignitari che ingombravano il palazzo. E tra quelle rovine l'imperatore proseguiva i preparativi per la campagna imminente. Fu adoperata una foresta intera per la costruzione di ponti mobili e di pontoni per traversare il Tigri. L'imperatore aveva ricevuto con gioia tutta una serie di titoli nuovi decretati dal Senato. Non vedeva l'ora di finirla con l'Oriente per tornare a Roma da trionfatore. Il minimo indugio scatenava in lui furori che lo squassavano come attacchi. Persino le sue qualità erano invecchiate. Quella giovialità un po' goffa che in altri tempi mascherava un'autentica bontà, ormai non era più che un vezzo triviale. La sua fermezza s'era mutata in ostinazione, le sue attitudini per le decisioni immediate e pratiche in un totale rifiuto di pensare. da secoli ci preoccupava il problema dell'Oriente. Sembrava naturale risolverlo una volta per tutte. I nostri scambi di derrate con l'India e con il misterioso paese della seta erano interamente alla mercé dei mercanti ebrei e degli esportatori arabi, i quali godevano la franchigia nei porti e sulle strade dei parti. Una volta annientato l'impero vasto e fluttuante dei cavalieri arsacidi, avremmo avuto contatti diretti con quei ricchi confini del mondo. L'Asia, unificata finalmente, sarebbe stata per Roma nient'altro che una provincia di più. Il porto di Alessandria d'Egitto era l'unico dei nostri sbocchi verso l'India che non dipendesse dalla compiacenza dei parti. Anche lì ci trovavamo continuamente in urto con le esigenze e le rivolte delle comunità ebraiche. Il successo della spedizione di Traiano ci avrebbe consentito di ignorare quella città insicura, ma tutte queste ragioni non m'avevano persuaso mai del tutto. Mi avrebbe soddisfatto di più qualche abile trattato commerciale e intravedevo già la possibilità di ridurre la funzione di Alessandria creando una seconda metropoli greca nelle vicinanze del Mar Rosso, ciò che feci in seguito quando fondai Antinopoli. L'Asia, quel mondo tanto complesso, cominciavo ormai a conoscerlo. I piani semplici di sterminio totale che erano riusciti in Dacia non erano attuabili in questo paese brulicante di una vita più molteplice, dalle radici più profonde. Da essa dipendeva inoltre la ricchezza del mondo. Al di là dell'Eufrate cominciava per noi il paese dei rischi e dei miraggi, le sabbie ove si affonda, le strade che finiscono senza metter capo in nessun luogo. Il minimo rovescio avrebbe prodotto come risultato una scossa al nostro prestigio tale che qualsiasi catastrofe avrebbe potuto derivarne. Non si trattava soltanto di vincere, ma di vincere sempre, e in questa impresa si sarebbero logorate le nostre forze. Aveva ragione Cesare a preferire d'essere il primo in un villaggio che il secondo a Roma, non per ambizione o per vanagloria, ma perché chi occupa un ruolo secondario non ha altra scelta se non, tra i pericoli dell'obbedienza, quelli della rivolta e quelli ancor più gravi del compromesso. E io non ero neppure il secondo a Roma. L'imperatore, in procinto di partire per una spedizione irta di pericoli, non aveva ancora designato il suo successore. Ogni passo in avanti offriva un'occasione propizia ai capi di Stato Maggiore. Quell'uomo quasi ingenuo, in quel momento mi sembrava più complicato di me stesso. Solo le sue asprezze mi rassicuravano. L'imperatore mi trattava rudemente, come un figlio. In altri momenti mi aspettavo di essere soppiantato da Palma o soppresso da Quieto. Non appena fosse possibile fare a meno dell'opera mia, ero privo d'ogni potere. Non mi riuscì neppure ad ottenere un'udienza per i membri influenti del Sinedrio di Antiochia, i quali temevano, quanto noi, i colpi di forza degli agitatori giudei ed erano in grado di illuminare Traiano sui maneggi dei loro correligionari. Non ottenne ascolto neppure Latinio Alessandro, un amico mio che discendeva da una delle più antiche famiglie reali dell'Asia Minore e godeva di grandissimo prestigio sia per il nome sia per la fortuna. Plinio, inviato in Bitinia 4 anni prima, vi era morto senza aver avuto il tempo di informare l'imperatore sullo stato esatto degli animi e delle finanze, ammesso che il suo ottimismo incurabile glielo avrebbe concesso. I liberti profittavano dei giorni di malessere che seguivano le serate di ubriachezza dell'imperatore per escludermi dalla sua camera, mentre il consolare Celso, un mio nemico, una sera si chiuse con Traiano in un conciliabolo che durò per ore, in seguito al quale mi credetti perduto. Mi cercai alleati ove potei, corruppi a prezzo d'oro antichi schiavi che volentieri avrei mandato alle galere, blandì ripulsive teste arricciate. Il diamante di Nerva non sprizzava più nessuna luce. Thank you. Fu allora che mi apparve il più saggio dei miei geni tutelari, Plotina. Conoscevo l'imperatrice da quasi 20 anni. Appartenevamo allo stesso ambiente, avevamo più o meno la stessa età. L'avevo vista vivere senza scomporsi un'esistenza fatta di costrizioni quasi quanto la mia e più spoglia di avvenire. Nei momenti difficili mi aveva appoggiato senza avere l'aria di accorgersene ella stessa. Ma in quelle giornate amare d'Antiochia la sua presenza mi divenne indispensabile, come poi mi restò sempre la sua stima e la ebbi sino alla sua morte. Mi abituai a quella figura dalle candide vesti, semplici quanto possono esserlo quelle di una donna, ai suoi silenzi, alle sue parole misurate che erano soltanto risposte, le più precise che sia possibile. In quel palazzo più antico degli splendori di Roma non era fuor di posto la sua figura. Quella donna d'estrazione recente era ben degna dei Seleucidi. Eravamo d'accordo quasi su ogni cosa. Avevamo entrambi la passione di abbellire, indi denudare, le nostre anime, di mettere il nostro spirito a prove d'ogni genere. Ella era incline alla filosofia di Epicuro, quel giaciglio angusto ma pulito sul quale a volte ho disteso il mio pensiero anch'io. Il mistero degli dèi, che per me costituiva un tormento, non era motivo di inquietudine per lei, e non provava neppure la mia attrazione appassionata per la carne. Era casta per disdegno delle cose facili, generosa per elezione più che per natura, saggiamente diffidente ma pronta ad accettare tutto da un amico, persino gli errori inevitabili. L'amicizia era un fatto elettivo per lei e vi si impegnava tutta intera, vi si abbandonava totalmente, come a me è accaduto solo con l'amore. Nessuno mi ha conosciuto quanto lei. Ho lasciato che vedesse cose che ho accuratamente dissimulate a chiunque altro, per esempio qualche viltà segreta. Mi piace credere che anch'essa, per parte sua, non mi abbia taciuto quasi nulla. L'intimità dei corpi, che non è mai esistita tra noi, è stata compensata da questo contatto di due spiriti intimamente fusi, l'un con l'altro. La nostra intesa non ebbe bisogno di confessioni, di spiegazioni, di reticenze. I fatti bastavano da soli, ed ella li osservava meglio di me. Sotto le trecce pesanti che la moda le imponeva, la sua fronte pura era quella di un giudice. La sua memoria serbava un'immagine esatta degli oggetti più trascurabili. Non le capitava mai, come a me, di esitare troppo a lungo o di decidersi troppo presto. Le bastava un'occhiata per scoprire le piste dei miei avversari più nascosti e valutava i sostenitori con saggia freddezza. A dire il vero, eravamo complici, ma chiunque avrebbe stentato a riconoscere tra noi gli indizi d'un accordo segreto. Non commise mai l'errore grossolano di lamentarsi dell'imperatore con me, né quello più sottile di scusarlo o di farne gli elogi. Da parte mia, la mia lealtà non era messa in questione. Attiano, appena arrivato da Roma, prendeva parte a quei colloqui che a volte duravano tutta la notte, ma pareva che nulla stancasse quella donna fragile e imperturbabile. Era riuscita a far nominare consigliere privato il mio antico tutore, eliminando così Celso, mio nemico. Thank you.